Nascita di Bologna. Pare che il nome del canale che attraversa Bologna, l'Aposa, abbia un'origine nobile. Si dice infatti che Aposa fosse la moglie del re etrusco Felsino, morta annegando nelle sue acque. La tradizione tramandata dai poeti Silio Italico e Servio Mario Onorato vuole che sia stato re Ocno, padre di Felsino, a costruire un insediamento etrusco sui colli bolognesi, sulle rive del Reno. Ocno avrebbe così fondato la città, battezzandola Felsina in onore del figlio. Felsina è la latinizzazione del nome etrusco Velsna, o Felsna, come menzionato da Plinio il Vecchio nel terzo libro della sua opera Naturalis Historia. Ocno era il fratello di re Aoleste, il fondatore della città di Perugia, e potrebbe aver scelto una sorta di esilio volontario, insieme ai suoi fedeli, per le forti divergenze di carattere politico che lo contrapponevano al fratello. È doveroso ricordare che, secondo alcuni storici, il significato della parola Felsina potrebbe essere terra fertile, mentre secondo altri luogo fortificato. La fondazione della città etrusca risale all'anno 534 a.C., ma il territorio era già abitato da centinaia di anni da una civiltà di origini indoeuropee, detta Villanoviana. I Villanoviani erano pacifici, nei loro monumenti funerari non è mai stata trovata un'arma. Non conoscevano la scrittura, ma utilizzavano una serie di simboli, tra cui la svastica. Inizialmente Etruschi e Villanoviani devono aver convissuto. Dopotutto gli Etruschi si stanziarono su un colle tra Porta d'Azeglio e Porta Saragozza, mentre i Villanoviani occupavano la zona tra Via del Pratello e Via Garibaldi. Ma in seguito, probabilmente, la civiltà più recente deve aver progressivamente assorbito quella più antica. In questo periodo Felsina prosperò, grazie all'agricoltura e ai commerci, al punto da diventare una delle città più importanti dell'Etruria. L'armonia venne spezzata dall'invasione dei Galli Boi, che dalla Francia scesero nella pianura padana tra il 358 e il 354 a.C. Agli ordini di re Brenno, i Galli rasero al suolo gli insediamenti etruschi e occuparono il territorio. Parliamo delle stesse orde barbariche che in seguito misero a ferro e fuoco la città di Roma. Della civiltà etrusca rimangono le testimonianze dei monumenti funerari ritrovati nelle loro necropoli, che erano situate nei pressi degli attuali giardini Margherita e nella zona della Certosa. Furono i Galli a chiamare il loro insediamento Bona, che in lingua celtica significa semplicemente città, e a scegliere per il fiume il nome Reno, proprio come il fiume che avevano lasciato in madrepatria. Non stupisce quindi che il dialetto bolognese abbia più di un'assonanza con la lingua francese. I Galli rimasero qui indisturbati per circa 200 anni, fino all'arrivo delle truppe romane guidate dal console Publio Cornelio Scipione nel 1191 a.C., che sconfissero duramente i Galli e occuparono il territorio. Scrisse Tito Livio: «Quindi, riuniti gli eserciti, percorsero dapprima saccheggiandolo il territorio dei Boi fino alla città di Felsina». Quella città, con le altre fortezze circostanti e quasi tutti i Boi, ad eccezione dei giovani che avevano preso le armi per fare bottino e si erano ritirati in foreste poco accessibili, fecero atto di sottomissione. Il controllo della zona si rivelò prezioso per i romani, sia per la ricchezza naturale del territorio, favorevole all'agricoltura, che per la posizione strategica. Ora che il confine dell'Italia romana era stato spostato a nord, era necessario difenderlo. Nel 189 a.C., sotto la supervisione dei consoli Lucio Valerio Flacco, Attilio Serrano e Valerio Tappone, vennero inviate circa 600 famiglie di coloni, per un totale di 3.000 persone, a ognuna delle quali vennero assegnati 12 ettari di terreno. Si dedussero una serie di colonie a distanza regolare e quella nell'area compresa tra il fiume Reno e il torrente Savena venne chiamata Bononia. Come era uso nella civiltà romana, vennero tracciati cardini e decumani, ovvero lo scheletro intorno a cui costruire la città. Poi, nel giro di pochi anni, Bononia venne collegata all'Italia centrale mediante la via Flaminia e a Piacenza e a Rimini tramite la via Emilia. Il decumano massimo, cioè la strada principale da est a ovest, lo possiamo individuare nelle attuali vie Ugo Bassi e Rizzoli, ovvero il tratto cittadino della via Emilia, mentre il cardine massimo, la strada principale da nord a sud, era tracciata dalla linea via Galliera via Val d'Aposa. Questo significa che se vi posizionate in via Ugo Bassi, all'altezza dell'incrocio con via Giacomo Venezian, vi troverete esattamente al centro dell'antica colonia romana. Col passare del tempo, Bononia assunse dimensioni ragguardevoli, i cui confini erano definiti dalle linee dell'attuale Piazza Malpighi via Marconi, da Piazza di Porta Ravegnana, dove si trovano le due torri, dalle vie dell'Orso e Bertiera e dalle vie Farini, Carbonesi e Barberia. Durante il periodo di dominazione romana, per la città si aprì un nuovo periodo di prosperità. In cambio della fornitura di cereali e all'occorrenza di truppe, Bononia poté godere di una certa autonomia amministrativa, era governata da magistrati locali e beneficiava dell'esenzione del pagamento di tributi a Roma. Venne costruito un primo teatro, il Foro e un complesso di templi. Nell'88 a.C., dopo le guerre sociali, Bononia ottenne lo status di municipio. Un bel miglioramento rispetto a quando era considerata soltanto una colonia, dato che ai suoi abitanti venne riconosciuta a tutti gli effetti la cittadinanza romana. L'età augustea vide il progressivo miglioramento degli arredi urbani. Le strade furono pavimentate, entrarono in funzione le terme, vennero costruite l'arena, le fognature e l'acquedotto del Setta, di cui abbiamo già avuto modo di parlare. Sebbene in questo periodo gli edifici pubblici vennero ristrutturati con l'uso del marmo, la maggior parte della città era costruita in mattoni. Selenite, una varietà di gesso di cui gli Appennini della zona di Monte Donato sono ricchi, e soprattutto legno. Non sorprenda quindi che un incendio, le cui origini non sono mai state chiarite, l'abbia gravemente danneggiata nel 53 d.C. Determinante in questa situazione il contributo del giovane Nerone, all'epoca ancora console, che a Roma fece pressioni sul Senato per ottenere l'erogazione di un contributo per la ricostruzione. E non si parla di spiccioli, ma di ben 10 milioni di sesterzi. Grazie a lui fu ristrutturato e ampliato anche il teatro, i cui resti occupano l'area compresa nell'isolato tra Via De Carbonesi e Piazza dei Celestini. Oggi purtroppo non è possibile ammirarlo. Si trova infatti sotto le fondamenta di un edificio privato. Questa circostanza mette sotto una nuova luce la figura dell'imperatore Nerone, oggi sensibilmente rivalutata dagli storici. Non bisogna infatti dimenticare che anche durante il celebre incendio di Roma, il comportamento di Nerone fu tutt'altro che scorretto. Fece aprire i cancelli della sua residenza per accogliere gli sfollati e requisì una grande quantità di cibo alle famiglie patrizie per sfamarli. La sua cattiva reputazione è probabilmente dovuta alla sistematica opera di denigrazione dei suoi numerosi oppositori politici, nei confronti dei quali fu sempre piuttosto intransigente. A testimoniare l'intervento di Nerone a Bologna esiste un busto in marmo panneggiato da una corazza, rinvenuto ai primi del XVI secolo proprio in Via De Carbonesi e oggi conservato al Museo Civico Archeologico. Il percorso